Bisogna alzarci presto quando ancora notte, per osservare l'alba, nascondere le stelle, mentre il silenzio ci fa nuotare in mare. Sei tu che mi descrivi l'universo, tu che mi fai battere il cuore come fossi in prima elementare, quando la maestra ci voleva far cantare. Senza parlare, bisogna imparare a capire l'amore prima che sia tardi, a distinguere il bene dal male, a capire che cosa è importante, che cosa ci serve davvero e che cosa non vale niente, niente, niente. Ci serve lo stupore per riempire i sensi, per darci forza e spingerci più avanti, perché toccare è meglio che guardare. Sei tu che mi racconti la passione, tu, e la fai diventare ragione, come fanno a volte le parole. Tra le righe più normali c'è una frase micidiale. Vivi con me in questo tempo, cosa vuoi che sia, è solo amore, tanto vale viverlo questo momento. Questo tempo.